cordiale buon momento a tutti. Io sono DJ Brontolo e non ho potuto fare a meno di lasciarmi sfuggire l'offerta fattami da Radio Pazza. Fare io il DJ per 45 minuti qui a Radio Pazza è per me un onore e colgo perciò l'occasione per salutare Bach e Prisma, ringraziandoli per avermi ceduto tre quarti d'ora del loro spazio radio. Quindi non posso fare altro che mettermi immediatamente al lavoro per girarvi questa mia selezione, dedicata ovviamente a tutti gli ascoltatori di Radio Pazza. La musica oggi da me proposta è liberamente scaricata da Mac Idol, che colgo l'occasione per ringraziare anch'esso. L'ultimo mio e doveroso ringraziamento è ai fedelissimi ascoltatori di un'altra Radio Roma, che spero giunti qui copiosi al blog di Radio Pazza, dalla quale sto trasmettendo. Ora basta con le chiacchiere, perché ho qui una vagonata di musica che chiede solo di essere ascoltata. Quindi andrò a presentare la mia personale selezione musicale, dedicata a tutti voi. Principiamo con la traccia 1 di Rob Lukurst, con la sua Modulus. Continuiamo poi con Talking Ape, con Brad Pitt. La traccia 3 è un regalo di Julian Bowman, con la sua Urban Twilight. Traccia 4, Piano Chocolate, Lost Zone. Traccia 5, Cantalina, un pezzo di Thomas Alvardo che si intitola Dreambox. Traccia 6, il mitico Dear Shack, con la sua The Cubacus. Traccia 7, Talking Ape, con 2-3 Break Hi-Fi. Traccia 8, Rob Lukurst, con By the Time You Read This. Traccia 9, Noise of Sound, con Visage. Traccia 10, She's So Mature Demo 1, rappresentata da David Jackal. Traccia 11, Noodle Nest, con She Beat Little Wipeout. Traccia 12, Ila Drow, con la loro Presta Attenzione, Meu, Irmao. Traccia 13, Unkesten Proudfoot, con All About You. E saranno proprio loro ad accompagnarci e ad avvicinarci in un caldissimo abbraccio che ci dondolerà verso la fine di questo podcast. Buon ascolto e buona radio libera a tutti. Pronto. e se ne savo pronto lao. Pronto lao. Thank you. Nicola. Alzatevi, torcetevi, mischiatevi e poi risolvetevi, ma amatevi sempre, perché è qui che risiede la vera libertà. We'll be right back. Thank you. contigo. Se liga no que eu falo, se eu tô falando demais, eu simplesmente me calo. Esse é meu jeito mineiro, quieto de falar. Esse é meu jeito mineiro, quieto de falar. Já não é fácil calar, melhor é deixar rolar. A maioria de nós é pessimista e se declara, se diz realista. Hoje minha cabeça não vai mais parar. Você, preste atenção, eu tô falando, meu irmão. Que eu vou ser, preste atenção, eu tô falando, meu irmão. Que eu vou ser, preste atenção, eu tô falando, meu irmão. Julgando os outros e nos esquecemos de julgar a nós mesmos. O que você pensa de verdade sobre você mesmo? A maioria de nós vive no sub, subemprego, sub você mesmo. Somos iguais perante a lei, mas não temos os mesmos direitos. Que eu vou ser. Você, preste atenção, eu tô falando, meu irmão. Procurando respeitar. Até aí tudo bem, que você queira ser alguém. Mas pense bem, antes pisar no chão. Tem sempre pau que nasce torto, morre torto. Minha batida, meu manifesto, meu estilo impregnado de conceitos velhos. Se abre para o novo, quem sabe até mudar a cabeça do meu povo. Você, preste atenção, eu tô falando, meu irmão. Que eu vou ser. Preste atenção, eu tô falando, meu irmão. Que eu vou ser. Preste atenção, eu tô falando, meu irmão. Eu tô falando, meu irmão. falando meu irmão. Eu tô falando meu irmão. Sì, pronto? Chi è? Radio Pazza? Ah, bene. Lo stai che te devo dire una cosa? Ah, a casa? Che fai, scendi? Non te la voglio dire per telefono, scendi. Scendi! E dai, scendi! Scendi, che te devo da menà! Per chi? Per chi? No, io voglio da sapere perché mi ha rubato il nome. Di chi? Di chi? Ma da radio! Sì, perché avevo pensato prima io. No, no, no, non mi sbaglio, non so matto. Non so matto. Mo' perché gli volevo dare la radio mia il nome pazza e invece gli ha dato tu? Io sarei matto? No, non so matto, so brontolo. So brontolo. Brontolo. Che vuol dire che mo' te spieghi? Come? Come mi chiamo? T'ho detto brontolo. No che non lo faccio, io so brontolo. Non faccio il brontolo, io so brontolo, mi chiamo brontolo. Come de nome de fatto? De nome! No, ma fammi capire una cosa, ma tu chi sei? Ah, sei Bach. Bach come il musicista. Quello che suonava. Sì, quello che suonava la pianola che è mano. Bach. Ti sei dato lo stesso nome. Anzi, scrive uguale. Ah, non si. Per il nome uguale. Si chiama Bach. Bach come te? Che tu ricordi? Bach. Ah no, quello, se scrivi in un altro modo. Vabbè. Vabbè. Comunque scendi, dai, che te devo da menà. Cioè sta qui pure un po' di gente, dai. Dai, scendi che te devo da menà. Loro te tengono e io te meno, dai. Americana. Scendi. E zitti un po' che sento. E dai, e scendi. Come c'ha da fa? Che c'ha da fa? Ah, stai a fare un podcast. Ah, insieme a chi? Insieme a? Ah, Prisma. Prisma. Ma poteva scegliere una figura più facile. Prisma. Boh. Prisma. Ah, non è un disegno. Ah, non è un disegno. Ah. E che colore è? Come che? La macchina, la Prisma. Ah, non è una macchina. Ah. Ah, ho capito. È un DJ. DJ Prisma. Comunque scendi. Scendi che te devo da menà. E dai. E dai, scendi un attimo. Vabbè. Adesso non puoi proprio, eh. Adesso non te puoi far menà. Vabbè. Va bene, alla prossima volta. Allora, la prossima volta, quando venite a radio mia, ve menamo, eh. Vi aspettiamo però, eh. Venite tutte e due che ve menamo. Va bene. Ok. Ciao, alla prossima, eh. Ciao.